Underground e stanco sta sporca società. Tutti cattivi condannerà e finalmente il bene trionferà. Il popolo del web ha tutte le risposte e conosce le verità nascoste a link colorati con frasi preparate a tante bufale pronte per essere postate. Cartelle di Sant'Antonio e petizioni, fotomontaggi oroscopi, tanti bacchettoni. Il popolo del web con un link eliminerà la violenza sul letto e ogni forma di crudeltà. Soldi, felicità, donne per tutti, è ancora un eroe.